America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Varsavia. Mario Platero. Those who argue otherwise, who suggest that America is in decline or has seen its global leadership slip away. America in declino, niente affatto, ha detto Barack Obama nel suo discorso di mercoledì scorso davanti ai cadetti di West Point. Però dopo le parole ci vogliono i fatti. Per questo il primo appuntamento del presidente americano domani qui a Varsavia, dove sono per seguirlo in questo suo importante, anzi direi importantissimo viaggio europeo, è in un hangar dell'aeroporto militare dove atterrerà per un incontro con avieri americani e polacchi. Beh, insomma, questo incontro nell'hangar non è una semplice visita di cortesia del capo di Stato americano alle sue truppe all'estero, ma è il primo evento coreografato di una due giorni polacca che servirà sia sul piano simbolico che su quello concreto a controbattere le prove di forza di Vladimir Putin in Ucraina. Questo è il primo significato di questa tappa nell'est Europa, dove Obama ha in programma incontri con la leadership polacca e poi c'è un vertice chiamato per la solidarietà con i leader dei principali paesi dell'Europa dell'Est. Mercoledì una bilaterale con il nuovo presidente Petro Poroshenko, il presidente dell'Ucraina, e poi un bagno di folla per la festa nazionale polacca che celebra i 25 anni della liberazione dall'Unione Sovietica. E sono tutti eventi in questi due giorni che chiaramente vogliono mostrare un volto unito da parte dell'Europa dell'Est nei confronti di Mosca. Noi siamo qui, non accetteremo che l'Ucraina sia ulteriormente, tra virgolette, violentata. Da Varsavia Barack Obama andrà a Bruxelles per un vertice G7 senza la Russia. Il messaggio per l'isolamento nei confronti di Mosca avviato in Polonia continuerà dunque con questo G7 che torna a una vecchia formula per punire Mosca, per isolarla, per dire sostanzialmente che se la Russia fa quello che fa, si annette la Crimea senza che ci sia stato un processo internazionale, un processo giuridico internazionale, beh, ovviamente non è all'altezza, non è in grado, non ha la credibilità per gestire l'ordine internazionale. Però, ecco, a Bruxelles si aprirà anche un nuovo capitolo, secondo me, perché Obama ha anche una missione economica in questo suo viaggio, in questa sua tappa nella capitale europea. Molte cose sono successe, vuole spingere l'accordo per il libero scambio transatlantico e vuole anche continuare ad accentuare la differenza dialettica con la Germania sulle misure per stimolare la crescita. L'America, come sappiamo, punta a misure espansive e la Germania preferisce il rigore. Ma ci sono su questo fronte due fatti nuovi intervenuti a complicare la tappa a Bruxelles di Obama. Il primo sono proprio i risultati elettorali delle elezioni europee. Beh, insomma, questa Europa che dovrebbe essere unita da dei messaggi contrastanti, contraddittori, il nazionalismo, il populismo hanno dato prova di una presa popolare molto forte. Il secondo elemento è la revisione di cui abbiamo parlato venerdì scorso del dato per il PIL del primo trimestre americano, che ha mostrato una contrazione dell'1%, la prima contrazione dopo 14 trimestri di crescita consecutiva. Obama non può non tener conto di quello che è successo in Europa, perché questo populismo, questo nazionalismo, c'erano anche un sentimento anti-americano che si esplicita per la prima volta in termini concreti, cioè in un voto. Il decisionismo di Putin, le annessioni forzate, le parole di derisione per le sanzioni, una retorica sapiente che da Mosca accusa l'America addirittura di aver iniziato di nuovo la guerra fredda, e hanno fatto presa su una parte crescente dell'opinione pubblica europea. E Obama, in questo viaggio di cui conosciamo ogni dettaglio coreografico, rischia di trovarsi una volta di più indietro e dunque dovrà inventarsi qualcosa di nuovo. Obama in Normandia, l'ultima tappa, rapidamente a Parigi, e da lì ci si trasferisce a Rouen. Ultimo elemento simbolico è quello che ci ricorda che cosa abbiamo pagato in Europa per via di colpi di testa simili a quelli di Vladimir Putin. Una guerra mondiale, dunque non ripetiamo, dice con questa sua tappa il presidente americano, gli errori del passato. Ebbene, Diciamo che io non credo che l'America si trovi davanti al rischio di una nuova recessione, non credo che gli ideali americani di democrazia, trasparenza, che sono punti di riferimento chiave per l'Occidente, possano davvero essere in pericolo nel contesto delle alleanze europee. Insomma, condivido quello che dice Obama sul non declino americano nel medio-lungo termine, ma una cosa è la continuità americana di medio termine del sistema paese, un'altra cosa è la presidenza Obama, che ormai è in odore di lame duck. Le sfide a Washington si allargano, nel teatro del Pacifico ad esempio la Cina cerca di conquistare posizioni nella gerarchia dell'alleanza, lo abbiamo visto appena la settimana scorsa. Il momento non è facile, il ricordo di un passato tragico tra Seconda Guerra Mondiale e Guerra Fredda serviranno secondo me sicuramente a Barack Obama, ma credo che qualche cosa sia cambiato. Come dicevo, il presidente forse si dovrà inventare qualcosa di nuovo per rispondere davvero alla sfida e convincere gli europei a continuare a guardare in avanti insieme. Un messaggio dunque per l'unità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa Casa Bianca che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre rappresentando l'America, la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi ho parlato di un messaggio unitario a partire da Varsavia. Domani il presidente si riunirà con i leader dell'Europa orientale e continuerà a parlare di unità al G7 nei confronti di Mosca, all'Europa nel contesto di un voto che ha disturbato in Normandia, ricordando che cosa l'unità ha portato combattendo il nazismo. E dunque, in omaggio a questo appello all'unità, dei Beatles, Come Together. Varsavia è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!